Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Si è evoluto nel corso del tempo l'atteggiamento della cultura occidentale nei confronti della donna. Un volume di recente uscita passa in rassegna 3 secoli di riflessioni politiche e sociali sulla condizione femminile. Se si svolge una rapida indagine per appurare quale sia stato l'atteggiamento dell'alta cultura occidentale verso la donna, i suoi diritti, la sua posizione nella società, si fanno delle scoperte a dir poco stupefacenti. Si scopre, ad esempio, che il liberal censitario John Locke, nell'Inghilterra della seconda metà del 600, aveva una posizione assai più avanzata dell'ultrademocratico Jean-Jacques Rousseau, che scriveva nella Francia della seconda metà del 700. Infatti, nel secondo trattato sul governo, 1690, Locke proclamava che il potere paterno era un potere duale e polemizzava aspramente contro coloro i quali collocavano il potere dei genitori sui figli interamente nel padre, come se la madre non vi avesse parte, mentre invece, se consultiamo la ragione e la rivelazione, vedremo che essa vi ha titolo uguale. Per contro, Rousseau, nell'articolo sull'economia politica, 1755, asseriva che «per diversi motivi derivanti dalla natura stessa dell'istituzione, in famiglia deve comandare il padre». In quanto le indisposizioni proprie della donna, per quanto lievi, le impongono una sospensione di attività e costituiscono pertanto una ragione sufficiente per escluderla da questa preminenza. È come non ricordare le pagine dell'Emilio, in cui il pensatore ginevrino afferma che «la donna è fatta per piacere e per essere soggiogata». Sicché ella deve rendersi gradita all'uomo invece di provocarlo e che più in generale, per quanto riguarda i loro rapporti morali, l'uomo deve essere attivo e forte, e la donna passiva e debole. Se si volesse continuare in questa rassegna di opinioni, si potrebbe citare Hegel che, nella filosofia del diritto, asseriva «Le donne possono certamente essere colte, ma non sono fatte per le scienze più elevate, per la filosofia e per certe produzioni dell'arte che esigono l'universale. Le donne possono avere delle trovate, gusto, delicatezza, ma non hanno l'ideale». La nobile battaglia condotta nell'Ottocento da John S. Mill per una piena emancipazione della donna nella società aprirà una pagina veramente nuova nell'alta cultura europea. Io credo che le relazioni sociali dei due sessi, che sottomettono l'un sesso all'altro in nome della legge, sono cattive in se stesse e costituiscono oggi uno dei principali ostacoli che si oppongono al progresso dell'umanità. Tutte queste cose mi sono ritornate alla mente leggendo il bel volume curato da Ginevra Conti Odorisio e Fiorenza Taricone per filo e per segno, antologia di testi politici sulla questione femminile dal XVII al XIX secolo, Giappichelli editore. In questa antologia il lettore trova un amplissimo materiale di analisi e di riflessione sulla condizione della donna nella società a opera di donne eminenti. Si tratta spesso di considerazioni acutissime di personalità eccezionali, da Eleonora Fonseca Pimentel a Cristina di Belgioioso, da Harriet Martineau ad Anna Kuliscioff, per citare solo alcuni dei nomi più noti. Assai opportuni e istruttivi in questo volume sono i profili biografici. Da quello dedicato a Teresa Labriola, figlia del filosofo marxista, si apprende che ella, laureatasi in giurisprudenza all'Università di Roma e conseguita la libera docenza in filosofia del diritto, ai primi del Novecento non poté portare a termine la prima lezione in quella università per la gazzarra inscenata degli studenti contro una donna in cattedra e che solo l'intervento della polizia riuscì a riportare la calma. Nel 1912 Teresa presentò domanda di iscrizione all'albo degli avvocati. Il Consiglio dell'Ordine accettò la domanda, ma meno di un mese dopo la Corte di Appello di Roma dichiarava che una donna non poteva esercitare la professione forense, riservata agli uomini. La Cassazione, investita del caso, confermava nel 1913 l'esclusione di Teresa e ribadiva, con abbondanti citazioni tratte da Papiniano e Ulpiano, che la donna non poteva essere ammessa all'esercizio dell'avvocatura. Protestarono personalità della cultura e ci furono anche interpellanze parlamentari, ma il divieto cadde solo nel 1919, con l'approvazione della legge sull'emancipazione giuridica della donna. Cadde per modo di dire, perché continuò a operare lungamente nella mentalità diffusa e nel costume. Avete ascoltato la lettura della recensione di Giulio Bedeschi al libro di Ginevra Conti Odorisio e Fiorenza Taricone Per filo e per segno, antologia di testi politici sulla questione femminile dal XVII al XIX secolo, dal settimanale Domenica allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Nei giorni scorsi un uomo di mezza età viene trovato privo di vita nella propria abitazione. Era morto da circa un anno e non è la prima volta, purtroppo, che nel nostro paese si verificano episodi simili. La notizia è di quelle brevi, che di solito i giornali mettono a una o al massimo due colonne nella sezione interni e che vengono definite curiose. A me sono sempre sembrate più che curiose, agghiaccianti. La settimana scorsa è stato trovato nella sua casa di Crema il corpo senza vita di Nicola Scarinci, 55 anni. Il rinvenimento è avvenuto casualmente. L'uomo doveva essere sfrattato e non rispondeva alle lettere del padrone di casa. Nell'appartamento è entrato l'ufficiale giudiziario che doveva consegnargli la notifica. Insieme a lui c'era l'ex moglie, che non aveva notizie del marito da alcuni mesi. Scarinci era morto da circa un anno. Così hanno certificato i medici. Un anno, 12 mesi, 365 giorni. Un tempo infinito per sparire inghiottito nel nulla, dimenticato, mai cercato da altri. E tutto questo in una città come Crema, che conta 30.000 abitanti, dove quasi tutti si conoscono. Si salutano per strada, passeggiano in Piazza Grande le domeniche o i giorni di festa. Eppure, non una persona ha cercato Nicola Scarinci. O se l'ha fatto non si è preoccupato di non averlo trovato. La solitudine perfetta, compatta, respingente, di un'esistenza apparentemente come le altre. E invece sorprendentemente diversa da quelle normali come le nostre, che sono scandite da incontri, dialoghi con gli amici e appuntamenti. Non era nemmeno anziano Scarinci. 55 anni sono pochi perché la vita abbia fatto il vuoto intorno a noi. La desolata solitudine dei vecchi che vedono scomparire accanto a loro gli amici, coloro che possono ricordarli giovani o appena adulti, le persone che li hanno accompagnati per buona parte del cammino. Questa crudele solitudine che affligge tante persone anziane nelle nostre metropoli rappresenta uno dei destini più insopportabili che la sorte possa riservare a un essere umano. Deve essere terribile veder morire accanto a sé, a uno, tutti gli alberi di quella grande foresta che è stata la nostra vita. Ma altrettanto crudele deve essere stata la solitudine di Nicola Scarinci. Se durante un anno intero nessuno si è accorto della sua scomparsa, ha avuto curiosità di sapere che fine aveva fatto, dov'era, che faceva, come frantumava le lunghissime ore delle sue giornate. Mi chiedo che tipo di vita aveva trascorso, che lavoro aveva fatto, quali relazioni umane aveva intessuto, perché non era riuscito a lasciare dietro di sé alcuna traccia, alcun segno, nemmeno quello simile alla bava leggera delle lumache nei loro percorsi autunnali. E penso, ogni volta che leggo notizie come questa, che la condanna peggiore per le persone che invecchiano e vengono espulse dal lavoro è quella di ritrovarsi soli, senza una compagna o un amico o un semplice conoscente con cui scambiare qualche parola, un'impressione, un ricordo, uno solo, anche di quelli meno ingombranti. Solitudini urbane senza speranze. Destinate ad aumentare nei prossimi mesi, quando dovremmo quasi tutti fare i conti con la crisi reale, e non più solo con quella finanziaria e spesso virtuale che finora sembra aver riguardato solo banchieri anonimi e speculatori cialtroni. Ci saranno meno posti di lavoro, minori possibilità di incontro, più depressioni in agguato e maggiori solitudini da gestire. Pensiamoci durante queste feste natalizie. Ricordiamoci di chi sta molto peggio di noi. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Pietro Calabrese 55 anni di solitudine dal Corriere della Sera Magazine numero 50 dell'11 dicembre.